Sai su Radio Wombat. E buonasera a tutti, signori e signori, la puntata della scorsa settimana era un pochino, diciamocelo, più pop. Questa settimana ritorniamo sul pesante, così come pesante ma anche significativo è il tema, che è la morte, la spiritualità ad essa connessa e anche un po' di nichilismo che a persone come noi ci fa sempre bene. E infatti l'avevo intitolata After Your Death, She Said, che è un pezzo che ascolteremo alla fine, ma che, del quale ve ne parlerò appunto alla fine. E invece, come apertura, mi piacerebbe farvi sentire un connubio che è tra due personaggi imminenti nel mondo della musica alternative, che mi piace ricordare questo termine per come veniva usato negli anni 90. E lei è Jarbo, che è una cantautrice americana sciamanica e insomma molto particolare. Il suo canto è influenzato da vari tipi di influenze etniche, appunto dagli indiani d'America a canti rituali asiatici. Ha collaborato con Neurosis e con tantissima altra gente, più che altro era membro fisso per un sacco di tempo negli Swans. Fece un disco insieme a Justin K. Broderick, che ne abbiamo parlato tante volte in trasmissione, che era il fondatore dei Godflesh e poi da solo con Yesu, e anche lui ha fatto altri 300 miliardi di cose. E il disco che hanno fatto solista, cioè il disco che hanno fatto è uno solo, e si chiama J2, ovvero la J delle loro iniziali alla ennesima potenza, del 2008, e il primo pezzo si chiama Decay, e da qui partiamo come concetto, cioè la decadenza, e andiamo avanti e ascoltatevelo intanto, buon ascolto. Oh, quindi non vi aspettate preghiere stasera, anche se la puntata potrebbe un po' falsare le vostre aspettative o i vostri timori più che altro. In realtà aspettatevi un sound del genere, è un discorso che rievoca un po' questa sensazione di morte che ti porti addosso ogni momento che passa. E, ragionando appunto su questo sentimento, vi vorrei far ascoltare un gruppo, o meglio, è il solo project di questo ragazzo americano che si chiama Timber Rattle, che ha suonato qualche settimana fa al Next Emerson di Firenze, ma lo trovate spessissimo a giro per l'Italia, perché forse fortunatamente a qualcuno interessa. E è una sorta di miscela tra qualcosa che è attinente al drone, all'ambient, ai canti devozionali, all'americana, che è proprio un genere folk. E spesso è coadiuvato da un altro paio di elementi che, oltre a suonare, cantano, quindi ci sono triplici voci, melodie molto lente vocali insieme a chitarre che riecheggiano blues super mega effettate. Insomma, è una cosa che secondo me sanno fare bene gli americani e poco gli europei. E quindi ci ascoltiamo questo pezzo, che secondo me è l'album più bello che ha fatto. L'album si chiama Phantoms of Place e il pezzo si chiama Beast of Passage. Buon ascolto, loro sono Timber Rattle, che è un serpente particolare. Thank you. Avete ascoltato i Timber Rattle, questo lungo pezzo, ma loro fanno molto spesso pezzi così lunghi, molto ispirati, quasi sacrali, rituali. Cambiando un po' in realtà genere, ma non tanto di sentimento, visto che è collegato appunto a una puntata che ha a che fare con la morte o alla mia morte anche, o forse la morte di tutti, un gruppo che si chiamano Canate, Canate, è un supergruppo fatto da Alan Dublin, che ha questa voce straziante, urlata fino all'inverosimile, insieme a James Plotkin, Stephen O'Malley e Tim Whiskyda, che sono tutti personaggi che abitano nell'ambiente del metal drone o del post-hardcore estremo. Mi ricordo quando ascoltai questo pezzo mi fece venire i brividi, conoscevo già loro, ma in realtà questo forse è uno dei pezzi più pop della loro discografia. Pop si fa per dire, insomma, perché è roba molto pesante. Si chiama Wings from Spine, è tratto dall'ultimo disco che fecero, è la prima traccia, la traccia d'apertura, il disco è Clean Hands, Go Fool, del 2009. Sono stati accostati alle cose che hanno fatto i Sun, anche perché c'è Stephen O'Malley, però secondo me sono molto più interessanti per il fatto che magari in questo pezzo si deduce poco, ma hanno come si può dire, un'attitudine al silenzio, ecco. Cioè, se il drone è continuo, loro arrivano fino alla fine di qualcosa che è sonoro o rumoroso, per poi caricarci su tutto l'odio e tutto la disperazione possibile. Ascoltatevelo e fatevi un'idea. Canate. E non potevo non mettere i Coil anche a questo giro, perché sono tra il gruppo più intenso anche che naviga su questi concetti. E appunto vorrei mettermi, come ho detto per sbaglio perché mi incarto spesso, un pezzo tratto dall'ultimo disco che uscì loro nel 2005, che si chiama The Ape of Naples. È uscito postumo dopo la morte di John Balance. Dopodiché, dopo pochi anni, è morto anche Christofferson, per cui è attinente, diciamo, molto attinente nel loro essere collanti e per loro essere petrolio a contatto con le persone. A livello musicale, il pezzo si chiama Amber Rain. Quando lessi la prima volta il testo mi scioccò molto una parte di testo che è breve, che dice: It seems this day the weaker ones survive. What an awful way to find out you're alive. Ovvero, sembra che in questi giorni solo i deboli sopravvivono. Che brutto modo per capire che sei vivo o sopravvissuto. Dopodiché la beffa è stata che chi l'ha scritto è deceduto, per cui insomma forse non era un debole. E, ok, lo metto, Amber Rain dei Coil. Strong. adesso è arrivato il momento di farvi sentire un brano di Amanda Galas dal vivo, proprio ultimo del 2017, un live al St. Thomas the Apostle Harlem. È proprio uscito una sorta di disco autoprodotto che potete anche scaricare. Diamanda Galas, per chi non lo sapesse, è una cantautrice greca che è attiva dagli anni Ottanta, che all'inizio ha proposto roba sperimentale, molto, molto estrema, soprattutto a livello di cantato, perché aveva un sacco di ottave e aveva un cantato anche violento, per quanto lirico e innovativo, insomma. Dopodiché, nella seconda fase, ha iniziato a fare cose di pianoforte e voce, sempre bellissime, ma estreme su un altro fronte, più musicale che concettuale. Il pezzo che vi propongo è Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, ovvero la sua interpretazione di una poesia molto conosciuta di Cesare Pavese. Non so se leggervela, ma sì, ve la leggo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dalla mattina alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vidi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Thank you. Questa era Diamanda Galas dal vivo, con appunto che interpretava appunto un pezzo di Cesare Pavese, una poesia di Cesare Pavese. Adesso scatta l'ora zu, che ho conosciuto di persona e ho seguito un po' negli anni. È un discorso un po' complesso, perché il pezzo che vi metterò è tratto da Cortartodo del 2015, che si chiama Sky Burial, però in realtà è anche lo Sky Burial, detto in inglese o in americano, è anche in Tibet noto come Yator, che è anche l'ultimo disco loro. Loro è un gruppo romano che fanno jazz core e erano partiti con il Mat, che hanno avuto un grosso successo, per cui sono stati scoperti anche dall'etichetta di Mike Patton, la Ipecac, e adesso sono molto differenti. Sono sempre Li ho visti dal vivo e sono un gruppo che ti fa pensare, perché appunto tanti altri gruppi che limitano, ecco, loro diciamo sono un po' la matrice originaria di tante cose che potete ascoltare, di jazzcore o comunque roba molto strumentale e violenta, ovviamente. L'ultimo disco, Yator, sono due tracce che sono veramente pesanti, molto simili a qualcosa che ha a che fare con i Coil, poi, quindi è anche spiazzante. L'ho trovato bellissimo. Poi ho ragionato anche con Massimo Pupillo, il bassista, e ci siamo trovati d'accordo su alcune cose. Il disco, tra l'altro, è prodotto da un'etichetta molto più piccola rispetto all'Ipecac, che è londinese o inglese comunque, che cura appunto musiche più rituali, e che, se ho capito bene, fa capo a Ty Paul Sandra, che è un po' il terzo elemento dei Coil dell'ultimo periodo, che è anche un pochino vasto. Beh, a parte questo, lo Sky Burial è un po' una cosa che ha a che fare col buddismo, e che sarebbe un po' il fare l'elemosina agli uccelli. In realtà, è lo smembramento di un corpo e lo spellamento del cadavere, dato in pasto agli avvoltoi, per cui potrebbe essere un'immagine violenta, però in realtà è carica di significato, perché per gli indiani è una sorta di purificazione, è una sorta di trasferimento della coscienza. Per cui il cadavere in sé è proprio un cadavere, non vale più nulla, vale quello che c'era dentro il corpo. E c'era questa anticipazione del concetto appunto in Cortartodo, nel disco prima, che è del 2015. Ve lo faccio ascoltare, che tra l'altro è uno dei pezzi più belli del disco. È anche una cosa che fa pensare agli Zoo come un gruppo differente da quello che uno ha conosciuto da fine anni 90, e comunque dal vivo spaccano il culo, diciamocelo, sono i più grossi. Buon ascolto. Thank you. Erano gli Zoo con Sky Burial, tratto da Cortar Toto del 2015. Tra l'altro, volevo dire che il disco nuovo ha una suite di musicisti abbastanza importanti. Quando li ho visti io, come fonico, c'era anche un grande fonico che è Lorenzo Stecconi. Insomma, li saluto tutti. Che tra l'altro collabora anche appunto nel disco nuovo. Ascoltatevelo e prendetevelo e andateli a vedere dal vivo perché è un'esperienza importantissima, secondo me. Adesso faccio un break per ricordarvi un po' di cose che Radio Wombat è nata da tanto, dal novembre scorso del 2016. E attualmente ha in serbo per voi un sacco di trasmissioni, un po' di tutti i tipi, dalla musica classica della Fuga del Gatto a programmi di linguistica come l'Accademia della Brusca che avete sentito prima di questo programma, a 3.000 siepi di aneddoti sportivi e musica attinente. Fuoco alle polveri che è un contenitore di interviste su libri o qualsiasi altro tema. Uru che è sulla musica africana. Il rovescio della medaglia che è sul prog, o era sul prog perché forse è finito ma non ci capisco nulla. Soul Time che è sul Northern Soul. Slick Chick che Bloody Mary fa puntate sempre diverse un po' alla 8 Hz su concetti e personaggi vari. Tonight Alive con dei live bootleg veramente preziosi. Cocchi al silicio, che è una sorta di telegiornale come passaggi a nord-ovest. Mortal Wombat che sta andando molto, che è sul rap perché voi siete giovani quindi vi piace il rap, ma è un rap che non è americano. Come tendono a precisare, ma è italiano o europeo, per cui zero pose e cazzutaggine e cazzo duro. E basta. Ah sì, mi scordavo di dirvi un po' di social, che sono. Ci potete trovare su Twitter, che è twitter.com Radio Wombat Fi, Wombat sempre con la W, come il wombato che è questo animale, questo tizio che fa la cacca cubica, che ci piace molto, molto cazzuto. La mail che è la posta wombat @insiberia.net, per cui vi consiglio di scrivere alla posta, non a Facebook o altri canali, per dirci le vostre opinioni o i vostri reclami o per dirci che siamo fantastici e vi è venuta l'alopecia a forza di strapparvi i capelli. C'è anche il Facebook che è Radio Wombat Firenze, insomma, poi lo trovate se siete neanche smanettoni, siete bimbi minchia, lo trovate. Ok, e dopo gli Zoo ci voleva un altro gruppo abbastanza estremo come gli Indian, che sono un gruppo in realtà sludge, che c'entra un po' con la morte perché sono una tra le cose più annichilenti che ho sentito negli ultimi anni. Il pezzo si chiama, loro sono dell'Illinois, si chiama Rape, il disco è From All Purity del 2004, godetevelo voi che chiamate le sonorità estreme e quindi siete abituati a 8 Hz. Thank you. con questi tamburi mortuali di fine pezzo introduco, ahimè, la scomparsa di Mika Vainio, conosciuto come l'altro membro dei Panasonic o Panzonic. Mi ricordo questo aneddoto importante, che la Panasonic, querelò i Panasonic perché stavano usando il loro nome, e allora loro fecero il primo disco, dopo questo fatto, che si chiamava Panzonic. Però in mezzo a Panzonic c'era una A, perché il disco si chiamava A, per cui comunque ripetevano la cosa Panasonic, che è comunque uno tra i gruppi più, un progetto tra i più conosciuti di elettronica minimale con synth, fatti praticamente autocostruiti. E l'ho visti varie volte dal vivo, e veramente sono anche molto più noise di come sono i dischi. Purtroppo ci ha lasciato una grande figura di musica, diciamo sperimentale, ma comunque estrema, ecco, su un fronte differente da quello che stiamo ascoltando, che era elettronica pura. Grazie, qui continuiamo a bere. È giallino, ma è vodka questa? Boh, vabbè. All'Accademia della Brusca fanno degli intrulli strani, vabbè, li assaggerò. E allora, comunque, era doveroso e importante farvi conoscere Mika Vainio, che tra l'altro vi avevo già fatto ascoltare delle cose durante altre trasmissioni. Questo invece è tratto da un disco del 2011 che si chiama Life, tra parentesi, puntini, puntini, It Eats You Up, si chiama In Silence Scream Takes a Heart, che l'ho trovato importante per questa puntata. È un drone anche questo, che diventa sempre più noise. Pace all'anima sua, importantissimi, cioè, trovate, scaricate, comprate di tutto, dei Panzoni, che di Mika Vainio, perché sono veramente fondamentali per il nostro secolo. Buon ascolto, parte basso. questo era Mika Waino con un suo pezzo del 2011, per cui insomma, se avete sentito la sonorità, è fondamentale per gli amanti di queste cose. Tra l'altro, loro, almeno quando li vidi con i Panasonic, erano così presi che si portavano le macchinette autocostruite all'orecchio. Tipo, una follia totale. Voglio ricordare comunque che questo venerdì, il 21 aprile, al Next Emerson ci sono i Franti, che sono un gruppo storico che uscì per la Blue Bass, insieme ai Karakuri, i White Room e non mi ricordo chi altri, un nome strano tipo Tuma, roba del genere, Tu Madre. E quindi insomma, o voi di Firenze alzate le chiappe e venite a vedere i Franti, che è un grande evento. Finisco la puntata con il pezzo che ha dato un po' l'incipit alla trasmissione, che appunto si chiamava After Your Death, She Said, che è un pezzo degli Psychic TV che come i Coil, insomma, in questa trasmissione sono abbastanza messi, è attratto dall'ultimo disco loro. Poi dopo hanno fatto un vinile che è un EP. Comunque il disco si chiama Snakes. Ormai gli Psychic TV sono nella terza fase, infatti era Psychic TV 3, che è un po' nostalgica su un certo tipo di rock psichedelico, come potete magari anche ascoltare da questo pezzo. È bello è bello anche il testo, perché un po' narra il fatto che lei dice che dopo che sarei morto potrei essere quello che vorresti essere veramente. E lui dice, Genesis dice che non è così. Io ho sempre vissuto la mia vita per come sono nella realtà. Quindi vi metto questo pezzo. Vi auguro buonanotte, noi ci ritroviamo giovedì prossimo per non so quale altro delirio. Spero che vi sia piaciuto, come insomma la speranza di Cesare Pavese. Quindi, boh, vabbè, insomma, è troppo. Quindi vi mando il pezzo, buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo, 8 Hz, Radio Wombat, Psychic TV, After Your Death, She Said. She said, after your death, she said.